Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Non è mai stato così impegnativo per me fare una puntata il giorno che precede il 1° maggio, giornata canonicamente dedicata alla festa del lavoro, nel momento in cui il lavoro è così poco associato generalmente al concetto di festa. Cercherò di farlo lo stesso con la maggior leggerezza possibile. È ormai una cosa che fa parte delle tradizioni irrinunciabili parlare di festa del lavoro. Serve perché si fanno i concerti, perché la gente scende nelle piazze, perché ci si ricorda che in fondo lavorare, oltre a essere un grande privilegio, oltre a essere per molti un miraggio irraggiungibile o per altri una perduta nostalgia di uno stato di felicità, è anche qualcosa che ci realizza. È il nostro contemporaneo mondo di riferimenti più alto che ci sia. Noi siamo identificati per il lavoro che facciamo. Scusi ingegnere, prego dottore, salve avvocato, buongiorno signore. Queste sono naturalmente rinunciabili caratteristiche al nostro essere, alla nostra compattezza, alla nostra felicità, al nostro senso di sicurezza, alle quali difficilmente riusciamo a lavorare. Noi possiamo attribuire al lavoro qualunque caratteristica: la mobilità, l'elasticità, la duttilità, la fantasia. Comunque sempre rimarremo ancora, perlomeno noi connotati come uomini civilizzati di questa epoca, anche se essa sta scemando, e saremo sempre identificati per il lavoro che facciamo. Cosa fai? Non posso dire faccio il poeta, perché sennò entro naturalmente nella categoria morettiana di quelli che vedono gente, fanno cose, insomma inventano, millantano miseramente, fingono di essere qualcosa che non sono. Quindi torniamo a parlare del lavoro. Se io dovessi dire che la categoria che maggiormente ha rappresentato il lato oscuro di questa fantastica maniera che ognuno ha per rappresentare se stessi, arrivando a delle semplificazioni, a delle classificazioni comuni a tutti, io dovrei dire cosa sono io. È molto difficile, bisognerebbe fare un'operazione di introspezione faticosa, dolorosissima, non tutti siamo in grado di farla. È molto più facile dire io faccio il ragioniere, io faccio il geometra, io faccio l'addetto alla pulizia delle pubbliche strade. Perché le categorie professionali ci danno una grande leggerezza. Noi esistiamo grazie a quelle categorie, e nei momenti come quello in cui stiamo attraversando, che diventa tutto ciò precario, illusorio, difficile, difficoltoso, c'è una stretta, noi non soltanto perdiamo la nostra capacità d'acquisto, il nostro equilibrio economico, la nostra capacità di mantenimento delle famiglie, di nostra sopravvivenza, perdiamo soprattutto l'identità. E qual è, dicevo, il momento più felice in cui la ricerca di un'identità, o perlomeno l'annullamento di ogni velleità di avere un'identità, si va ad incontrare felicemente con questa grande materna idea del lavoro che ti dà identità, ti dà classificazione, in cambio tu sei uno schiavo? È il momento della felicissima intuizione di Paolo Villaggio nella figura di Fantozzi. Con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Fateci entrare, vogliamo lavorare! Questa sera voglio fare 3 ore di straordinario! Bisogna aumentare la produttività! Non posso vivere senza le mie pratiche! Non posso aiutiamo vivere. Questo nostro paese, aiutiamolo! Oramai le due grandi piaghe dell'assenteismo e del secondo lavoro che tanti danni hanno provocato all'economia italiana possono dirsi finalmente vinte e debellate. Via, il secondo lavoro dove ce l'ha lei? Alle poste. Ah, bene, potrebbe darmi un passaggio perché io stamattina sono venuto senza... Ecco, voi immaginate soltanto, per farvi riflettere su quanto non sia sproporzionata la mia affermazione, questa è una delle intuizioni più felici, che questo testo ha 40 anni. 40 anni fa Paolo Villaggio immaginava, frequentatore e conoscitore delle realtà impiegatizie lavorative, immaginava questa sorta di millantata passione per il lavoro: tutti gli impiegati vanno a lavorare fingendo grande affezione per la loro azienda, fingendo che nelle loro mani sono consapevoli è la crescita del paese, l'uscita dalla crisi. Che crisi ci potrebbe mai essere stata allora? La crisi petrolifera fa sorridere rispetto a quello che noi stiamo attraversando adesso. A solo a posteriori abbiamo capito quanto ci fosse di fittizio, di singolarmente, macroscopicamente costruito, favolistico, in questi momenti di crisi in cui si andava a piedi per risparmiare benzina. Beh, oggi proiettato nei nostri giorni sembra una realtà attuale, sembrano le serie realmente supportate da studi inoppugnabili, letture sulla uscita possibile dalla crisi. Fabrizio Blini, buongiorno. Buongiorno. Fabrizio Blini, l'avete sentito poco tempo fa a questi microfoni parlare del suo ultimo libro, Storie d'ordinaria corsia, edizioni ADD, in cui ci parla proprio dell'uscita dall'identità, dall'individualità, dall'ignità, nella condizione di malato. Il malato quando va in ospedale diventa un'altra cosa, diventa un numero, diventa una patologia. Tu sei un'ernia del disco, tu sei un'appendice perforata, tu sei una cerebrolesione, non so adesso esattamente, sto sparando a raffica. Beh, vedo che questo modello di analisi era precedente alla sua condizione persona che riflette sulle patologie, perché in una sua vita passata Fabrizio Blini era anche un consulente d'azienda, veniva chiamato a fare dei bellissimi discorsi riassunti in fantastici documenti PowerPoint che ho qui stampato nelle mie mani di fronte ai dipendenti. E cos'erano? Corsi di formazione, di problem solving, riqualificazione aziendale. Perché chiamavano proprio te le aziende? Perché più esattamente direi che innanzitutto riferito al fantozzismo è un fenomeno che non è mai terminato. Il consulente è molto fantozziano, diciamo la verità. Beh, il consulente è un prototipo del mondo di Fantozzi. È l'irrinunciabile figura che tutte le aziende negli ultimi decenni hanno pensato che fosse una sorta di demiurgo, con la possibilità di risolvere tutti i problemi. Esattamente. Arrivano questi signori, tutti belli, vestiti eleganti, uguali, come in squadra, tutti con i loro laptop, si siedono e cominciano a produrre PowerPoint, dove ogni cosa che tu dici, fai, pensi, respiri, immagini, viene tradotto attraverso degli schemi, delle colonne, delle tortine, e questo non risolve nulla, però è fantastico perché passa il tempo. Assolutamente sì, diciamo che il fantozzismo non è finito, è meno grottesco rispetto agli anni 70, però resta comunque un problema insoluto, perché comunque le aziende commettono spesso un errore principale, che è quello di essere molto concentrati sugli obiettivi di marketing esterno, ignorando però che anche i dipendenti costituiscono un mercato interno. Beh, questo è il grande problema delle risorse umane. Quando si riuniscono le risorse umane dicono: beh, adesso come facciamo? Stiamo per dargli questo bellissimo siluro. Chi ci procura la vasellina necessaria perché non se ne accorgano? Queste le risorse umane fanno. Il reparto delle risorse umane è sempre meno umano. Questo potrebbe non essere. Non trovi adesso tu che sei stato nel ramo, l'hai fatto seriamente, i tuoi documenti erano formidabili documenti, senza fare nomi, sono stati materia di discussione in grosse aziende. Il termine risorse umane non è così arcaico. Io mi ricordo si parlava, ai tempi che ho frequentato ambienti del genere, con ruoli che naturalmente rabbrividisco solo nel pensarlo, cioè, ti servono delle risorse, devi rinunciare a 6 risorse, mi daresti una risorsa? E dentro quella risorsa c'era un signore, una signora, un ragazzo, una ragazza. Trasformare l'umanità in risorse. Sì, e poi tra l'altro senza soddisfarla, nel senso, come tutte le aziende hanno una manutenzione tecnica per le macchine, per i computer, per gli strumenti, ugualmente dovrebbero applicare a queste risorse una manutenzione emotiva, che invece è molto spesso ignorata. Una volta facevano le aziende qualcosa, poi tagliando, la prima cosa che si è tagliata è questa. Sai, c'è sempre la concentrazione, e spesso in questi PowerPoint viene identificata dagli uomini di marketing come obiettivo la massima soddisfazione del cliente, però non si pensa mai alla massima soddisfazione del dipendente, senza capire che persone un po' incoraggiate rendono molto di più di persone che invece vengono a lavorare torto collo. I sistemi ci sono. Fare ogni tanto dei meeting in cui si coinvolgono i dipendenti, gli si dà il panettone e lo spumantino, oppure, non so, tu mi dicevi quella cosa fantastica di fargli gli auguri di compleanno al telefono la mattina. Sì, perché poi non è che bisogna inventare così tanto. Io sono stato testimone di un'operazione denominata buon compleanno, per cui le persone arrivavano in ufficio e si trovavano sul computer, quando accendevano, il buon compleanno aziendale. Vabbè, prima di Facebook, di Skype, che adesso lo fanno tutti, no? Assolutamente. Tra arrivano 2000 di auguri. Parlo degli anni, metà anni 90. E gratificava questo? E Insospettabilmente sì, perché il dipendente è talmente disidratato dal punto di vista affettivo che molto spesso basta una pacca sulle spalle durante la pausa caffè, no? Quando il capo scende tra i dipendenti sembra veramente l'apparizione quasi celeste, no? Cioè viene con noi a prendere il caffè. Quindi il principio base del fantozzismo non è stato sradicato, è stata intuita quello che è un rapporto mistico che deve naturalmente fluidificare i rapporti gerarchici in un'azienda. Il capo delle risorse umane dice all'amministratore delegato: scendi un attimo a mensa, dai una pacca sulle spalle, fai il complimento all'impiegata, fingi di assaggiare la brodaglia, dica scusa, ottima abbondanza. Sì, soprattutto oggi che rispetto a dei sistemi più verticali e piramidali che appartenevano al marketing del passato, oggi ci sono tutte queste parole crowdsourcing, sfruttare le piattaforme, l'outsourcing, per cui distribuire le competenze in maniera più equa, e invece poi alla fine si resta sempre su questi rapporti di forza, questo braccio di ferro continuo. È giusto che non ricordiamo. Pronto? Come? No, il geometra Mughini è su a lavorare dal direttore laterale. Scusi un attimo, Pronto? Buongiorno, no, la signorina Silvani. Ciao a tutti. Allora, di che cosa avete bisogno? Di carta extra strong e nastri bicolori per le olivette. Allora, mi raccomando, buon lavoro a tutti e giù col lavoro, mi raccomando. Cancelleria per i colleghi. Vado su al reparto per accelerare il lavoro. Ecco, questo è naturalmente il bersaglio ideale di ogni strategia delle risorse umane: l'impiegato che fa tutto per gli altri, lavora per 10, va a supplire nelle sacche di inefficienza. Un altro termine, questo è l'efficienza. Bisogna fare efficienza. Fare efficienza significa mandar via un po' di persone, in sintesi. Sì, poi ci sono gli agnelli sacrificali, no? Che o in un modo o nell'altro vengono arrostiti o dai dipendenti o dai colleghi stessi o dai superiori. Da Londra abbiamo Mirella Di Giorgio. Buongiorno. Buongiorno, io ho ascoltato, scusate il rumore, ho ascoltato con piacere, diciamo, l'intervento del signor Blini, e volevo dire che io, avendo vissuto tutto ciò, il corso di salto aziendale, gli auguri per mail, sto a un punto successivo di tutto ciò, no? L'ho vissuta questa cosa. Ma sta lavorando in un'officina adesso, da rumore di sottofondo? No, è che sono nelle scale. Quindi sei costretta andare in un angolo nascosto per non farti vedere stai telefonando in orario d'ufficio? Sì, rigorosamente. Ecco, allora, sempre fantozzi. Allora, io sono totalmente incapace dal provare menzogna. Mirella Di Giorgio è una fedele ascoltatrice che ci segue molto su Facebook, ogni tanto fa anche capolino della nostra redazione. L'ultima volta che è venuta ci ha portato un libro che in realtà è un libro stampato, impaginato, composto, completo di indice, completo di tutto ciò che deve avere un libro, solo che un libro che non è stato mai pubblicato e non so se sarà pubblicato. Indennità di umiliazione, è anche bello, è rilegato con dei nastrini da giarrettiera femminile, stupendo. Indennità di umiliazione, cosa si tratta? È l'esperienza durissima e faticosissima di questa ragazza che alla fine è andata a lavorare a Londra, però prima di andare a lavorare a Londra è passata con una sorta di forche caudine inenarrabili. Sì, diciamo un purgatorio, dico, odissea nel mondo del lavoro dal 2001 al 2011, cioè dalla laurea fino poi alla scelta di andarsene via perché non c'era proprio spazio per le pecore rosse, come dicevano Fantozzi, no? Le persone che in azienda sono degli outsider. Quindi insomma, quando si, scusate il rumore, ma dicevo, in azienda o si entra subito in certi posti. Mi sembra di sentire come delle belve dietro le gambe, stai in un circo. In che luogo lavoro? No, sono per le scale. No, sentivo ruggire. No, dicevo, o si ha la fortuna di imboccare subito, no, una strada, avere le idee chiare, invece se non si hanno le idee chiare ci sono due poi prospettive: o il precariato a vita oppure si entra in una grande azienda di quelle fantozziache. Senti, alla grande azienda, sempre usando metafore dantesche, si lascia ogni speranza, cioè, si entra lì e si sta a bagnomaria, insomma si aspetta di essere spostati da un ufficio all'altro. Le sorti delle risorse umane, cioè le persone decidono per te quello che tu devi fare. Quindi tu sei stata, ma come ogni persona che lavora, adesso Non so quanto rappresenti una singolarità la tua situazione. Ogni persona che lavora, se entra in quel meccanismo, entra in quel gioco, non può rinunciare a fare la risorsa umana. L'outsider è un concetto che alla fine va contro quelle che sono le strategie dell'azienda. Io adesso non è che voglio fare il difensore d'ufficio, ma chi si sente tanto singolarmente diverso dagli altri, tanto lambito dal genio, non può stare in un'organizzazione aziendale che ha delle regole. Sì, però dico, se, come hai detto tu una volta, c'era quella trasmissione, se Steve Jobs fosse nato a Napoli, non mi voglio paragonare a Steve Jobs, figuriamoci. Però voglio dire, il problema delle aziende italiane è che a forza di fare i pecoroni e ubbidire, nessuno diventa manager, nessuno prende decisioni, e quindi se si va avanti così, semplicemente essere ruffiani, cioè, poi è il problema dell'Italia, no? Cioè, a forza di inseguire, a superare a sinistra o a destra il capo solo per compiacerlo, poi alla fine nessuno ha più idee, nessuno osa e non ci sono. Allora, questo è un discorso che io sento fare molto spesso da persone che dicono che non sono capite in azienda, che i capi vogliono fare di testa loro, ma sbagliato giusto che sia, e non sono io certo a dirlo, non ho strumenti per dirlo, l'organizzazione aziendale è quello. Se capo è capo, il capo non può essere superato né a destra né a sinistra, fa lui il capo, si prende gli onori e gli oneri. O sbaglio pensando questo? Blini, cosa ne pensate? Ma io penso una cosa. Per me è tutto il sistema da riformare, esatto. Chiaro. Però in questo sistema, la persona che io a volte sono stato anche capo, e persone tipo Mirella erano quelle che ti scarnificavano le palle più delle altre, volevi levartele intorno, che volevano. Però a prescindere da Mirella, che non conosco, è oggettiva una cosa, che noi abbiamo costruito un sistema burocratico eccessivo, perché se a un certo punto hanno deciso di istituire un ministero per la semplificazione, significa che il livello di complessità aveva comunque raggiunto dei livelli eccessivi, altrimenti... Se ci fai un esempio, Mirella, per capire un po', perché sennò sembra il vago, la vaga rimostranza della persona che non si sente apprezzata. Tutti, dall'impiegato che entra il primo giorno, non sente apprezzato, fino al top manager che dice, sai, non mi capiscono, i grandi capi oltreoceano non mi riescono a capire. Tutti abbiamo l'idea di non essere capiti. Dammi gli episodi per farmi capire però come non sei stata capita. Ma sì, che per esempio c'erano dei problemi tecnici di IT, cose tecniche che ora non si può spiegare alla radio, c'erano delle anomalie, ecco, per spiegarci, dei sistemi non funzionavano. No, io ero sempre quella che le usava per prima. Allora andavo dal mio capo e dicevo, guarda che questo sistema non funziona, ma proprio cose tecniche. Poi lavoravo nei titoli, c'era un problema sull'aggiornamento del saldo dei clienti. No, ma sei sicura che loro volessero qualcuno che gli mettesse il dito sulle cose che non funzionano? Sai che i malfunzionamenti e le disfunzioni sono proprio le sacche di sopravvivenza di aspetti importanti di un'azienda? No, ma infatti sì, questo poi infatti non puoi fare la Cassandra, cioè io ero la Cassandra, poi dopo 6 mesi la cosa veniva fuori a forza di rompere le scatole, a quel punto poi nessuno poi ti ma no, dai grazie no, perché poi ho avuto anche dei capi così, però semplicemente appunto la cosa lì per lì dice uffa che palle, non mi va adesso di sollevare il polverone, chi sente quello dell'IT, chi sente di fare là, non mi va, lasciamo la cosa a bagnomaria, che non venga fuori il casino, poi a un certo punto il casino viene fuori. Poi la godevo un po' spesso perché vedevo che poi saltava in testa. Ma questo è l'atteggiamento proprio per essere espulsi dal rapporto. Infatti, ma non dico che sia giusto o sbagliato, però è così. La persona che viene chiamato il rompipalle, quello che manda l'email, quello che notifica ogni cosa, quello che vuole dare le lezioni agli altri. Le persone in un'organizzazione aziendale non vogliono sentirsi dare lezioni da persone che per ambito di competenza non si occupano quello di cui si occupano loro, se no metti in crisi tutto il sistema. Infatti io sono uscita da questo sistema, tant'è che per esempio dove sto adesso il mio modo di operare viene visto quasi normale, non sono più quella strana, ecco, la pecora rossa. Perché hai trovato un ambito aziendale in cui sei valorizzata, cercano persone come te, ma tu in che tipo di ambiente lavoro sei stata, tanto per far capire, così poi stringiamo. Ma io ho iniziato giornalismo, televisione, spettacolo, poi siccome lo trovo un ambiente di cialtroni, ora passo in ambiente bancario, finanziario, 30 anni, invece cialtroni pure lì, invece forse era meglio quando andavo in televisione, che c'era questo trionfo dell'approssimazione, ospiti invitati al posto di altri, tanto per riempire i buchi. Comunque guarda, fisiologicamente... prendilo come un'affettuosa maniera, sei la tipica rompicoglioni che nessuno vorrebbe avere, vai in un ambiente di lavoro o no? Sì, ne sono consapevole, quindi, però se uno ha un libro, cioè rifletto sull'esistente. Ma se uno ha il coraggio e l'estremo ardimento di impugnare con orgoglio e proclamare rompicoglioni Pride, è giusto che se ne prenda anche le conseguenze. Quindi avrai onore, spero, questo libro che è veramente fantastico, qualche editore abbia l'idea di dargli un'occhiatina e gratificarti, però è giusto che anche le rompicoglioni come te abbiano un loro giorno in cui viene celebrato l'orgoglio di appartenenza a una categoria. Melog, la realtà condivisa. Il mio unico sogno è quello di infilarmi qui, in questo letto. Nel letto? Niente capperi! Neppure io voglio i capperi! Via, ce ne vati! Ce ne va, signorina. Ma, dico Fantozzi, ma cosa sei messo in testa stasera? Come? Guardi che Calboni era quello che era. Sì. Però per delicatezza, la prima notte di nozze ha dormito in un'altra stanza. Non vorrà mica essere da meno. Sì. Già no. E allora vadi a dormire in un'altra stanza. Sì. Vadi. Sì. Hai capito? Sì, sì. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Stiamo alla vigilia del 1° maggio, del giorno in cui si ricorda la festa del lavoro, analizzando l'immarcescibile e mai tramontato spettro del fantozzismo, che in fondo è la qualifica, se volete, deleteria e denigratoria della classe lavoratrice, ma che in realtà mostra molti aspetti che, al di là dello stereotipo, al di là della prima facciata, sono degni di analisi. Abbiamo sentito in prima parte la nostra ascoltatrice, che ha scritto un libro, Mirella Di Giorgio, lavora a Londra, vive a Londra, ha trovato finalmente la sua collocazione, che lei denuncia come indennità di umiliazione, in cui sento umiliata perché in tutti i tentativi di lavoro in varie aziende d'Italia nessuno l'ha mai capita, non ha mai capito la sua fantastica maniera di essere elemento indispensabile per l'azienda. Fabrizio, in un'azienda perché persone come Mirella alla fine è più il danno che fanno rispetto al vantaggio? Ma sai, nelle aziende molto spesso c'è un principio che è molto antico, che è quello del dividi et impera, per cui un capo molto spesso tende a creare al di sotto di sé una certa concorrenza, una certa conflittualità, in modo che possa tenere sotto controllo tutti i dipendenti. È il principio fantastico del panino. Esatto. Per uccidere una persona tu li stai sopra e metti uno che sta sotto a questa persona nelle condizioni di nuocerli, che dipende direttamente da te. La persona muore. Esattamente, esattamente. Quindi che cosa succede? Che chiunque si ribella oppure tira sulla testa in maniera eccessiva di fronte a questo regime così imperiale viene decapitato. Andrea Bianchi, buongiorno. Buongiorno Nicola. Oh, finalmente una persona seria, perché noi fin qua abbiamo trattato un problema serissimo in maniera leggera. Andrea Bianchi è un coach, un formatore, docente alla Business School del Sole 24 Ore, autore del libro Uomini che lavorano con le donne, edizione Gruppo 24 Ore. Quindi il tuo lavoro è quello serio, quello vero, tu metti le mani in questa dolorosa materia e noi stiamo trattando con scellerata leggerezza. Ma mi dai subito... tanto io, No, però tu mi dai subito... La leggerezza fa parte del mio stile. Devi dirmi subito un tuo giudizio sulla fantastica signora, abbiamo sentito prima, che ha scritto veramente un libro, ce l'ho, è perfetto, sembra pronto per la stampa, in cui lei si lamenta che nessuno l'abbia capito. L'incompreso nelle aziende è un elemento che fluidifica il rapporto o è un elemento da mettere al muro? Ma ti dico subito, il titolo del mio libro che hai citato è un moltiplicatore non indifferente di quel quadro da Pulp Fiction tragico che è stato fatto, che è assolutamente puntuale, cioè il moltiplicatore dato dalla diversity, dal rapporto uomo-donna, è ancora, come dire, una complicazione ulteriore, una gatta da pelare con cui gli HR si devono confrontare. Ma non sembra singolare, uomini che lavorano con le donne, il tuo libro, edito appunto dal gruppo Sole 24 sì. Ore, è singolare pensare che in un momento in cui sembra che questa barriera sia stata superata in tutti gli ambiti, anche se poi non è mai realmente così, ma perlomeno nella coscienza generale tutti si sentono buoni, belli e accettabili e politicamente corretti nel dire che per loro non c'è differenza. Eppure ancora questa sorta di giusta riottosità femminile che vuole suggerire agli uomini come devono fare è vista come un limite. Assolutamente, c'è... Il discorso è che le donne hanno certamente vinto tante battaglie, però non hanno certamente vinto ancora la guerra. Perché? Perché hanno fatto un po' tutto da sola, se la sono cantata, se la sono suonata un po' all'interno di un club esclusivo a cui solo le donne era dato di partecipare. Gli uomini li hanno tagliati fuori, sugli uomini sono da anni ormai sono i riflettori sono spenti e l'uomo naturalmente reagisce o con indifferenza quando va bene o addirittura con paura e ostilità a questa onda femminile che tramacina, che aumenta e che sempre di più prende piede all'interno della... Andrea Bianchi, ma c'è una maniera per trattare appunto questi problemi diversity, inclusion, senza sentirsi in coscienza di essere un po' misogini? Perché figurati, le ascoltatrici sentiranno in questo momento, dividendo il nostro ascolto con la fava e il pecorino, diranno: ah, vedi, i soliti maschilisti stanno creando sistemi per arginare ancora di più l'entrata delle donne nel mondo del lavoro. Il mio libro va proprio nella direzione, è un libro dedicato agli uomini ma pensato per le donne, nel senso che... Fantasticamente illustrato da Crepax, quindi sì, anche per il nostro piacere. Sì, e, perché tende a così, a squarciare un momentino il velo che gli uomini hanno davanti agli occhi nei confronti del talento femminile. Cerca di dare, per carità, non delle regole, perché il mio libro è come una ricetta di cucina molto creativa, per cui ognuno poi prende gli ingredienti e si cucina il piatto come preferisce, perché dare delle regole in un mondo così variegato è praticamente impossibile. Allora, Fabrizio Intonti, dal di là del vetro della regia, ha subito dato una staffilata al mio amor proprio, giusta però. Mi cita Barbara Streisand: se un uomo sul lavoro è un pignolo esigente, è un professionista. Se è una donna, è soltanto una rompipalle. Purtroppo è spesso così. Purtroppo è spesso così. Le modalità femminili sono assolutamente diverse dalle modalità maschili. Le modalità maschili devono però cominciare ad accettare che il modo di fare delle donne ha un valore assoluto, soprattutto in un periodo di crisi come il nostro, dove genericamente parlando flessibilità, fantasia, modi diversi di fare le cose, quindi cambiamento, che è una parola strabusata, ma comunque portano un valore aggiunto a quel modo, a quel tran tran di modalità. Però non sarebbe il caso che cominciamo intanto a demolire, ma perché ciò ci fa bene a tutti, alcuni incredibili luoghi comuni? Le donne sul lavoro fra di loro hanno dei rapporti di sorellanza e solidarietà che gli uomini non conoscono, non sono competitive e sono molto più acute, intelligenti, le gerarchie gestite da una donna. Sì, è vero nei confronti degli uomini, ma fra donne mi sembra che siano sufficientemente iene. A me piace molto lavorare con le donne, ma grazie al piffero, sono un uomo, trovo un rapporto più piacevole. Ma tu parla a una donna, chiedi a una donna se gli piace avere un capo donna. Ricordate, hai messo il dito nella piaga. Lo so, a volte è piacevole. Se c'è un mito da sfatare, è proprio questo della coesione. Tantissime sono le donne che preferiscono lavorare con gli uomini e non con le donne. Parte soprattutto da una generazione di donne, attenzione, oggi c'è un nuovo stile, un nuovo modo di essere donne in azienda, è un modo più fresco, più femminile. La donna che conosciamo, quella che si è messa il taglio gessato, diciamo, l'armatura e che si è molto omologata al maschile, ha reso lei più di un uomo la vita difficile alle donne che entravano in azienda. È anche comprensibile, perché lei dice: ho rinunciato a tanto di me per arrivare qua e adesso schiattate voi. Nonnismo da caserma, diciamo. Sono state le prime martiri della conquista di un posto da loro. Blini, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo sul fatto che prima c'era un animus pugnandi più intenso, anche perché hanno dovuto aprire la strada. Prima il mondo del lavoro, le difficoltà saranno state enormi, era sicuramente più forte. Adesso è più edulcorata la cosa, adesso c'è un'accettazione sociale maggiore e quindi una tranquillità da parte delle donne, anche perché proprio per raschiare fino in fondo tutti i luoghi comuni e non tenerci dentro nessuna ipocrisia. Andrea Bianchi, anche il fatto che una donna che ha successo nel lavoro viene comunque aleggiato, e percentuali molto, molto importanti, è vero, non ci facciamo illusioni, che l'intima d'azione abbia molto favorito questa sua carriera, è anche un'altra cosa, che quando non ci sarà più questo problema, non ci saranno donne costrette ad essere arrendevoli, cedevoli, o a inventarsi storie d'amore che in realtà sono storie d'amore molto basate sul fatto che essere innamorate di una certa persona serve anche alla carriera, forse saremo tutti più leggeri anche in questa valutazione. Certo, perché la donna, questa nuova donna, questo nuovo modo di essere donna in azienda, in questo momento sta mettendo addirittura più in difficoltà l'uomo di quanto non lo fosse con la vecchia tipologia di donna. L'uomo ormai quella vecchia tipologia così omologa a se stessa la conosceva e si sapeva muovere. Adesso l'uomo è spettinato da questo nuovo stile di leadership femminile, lo riconosce poco, non ci si orienta poco, e deve semplicemente aprirsi, conoscerlo, saper riconoscere la donna. Tu citavi Crepax, c'è un'immagine molto bella di un uomo nudo su cui delle donne camminano con i tacchi, e lui riconosce i vari nomi delle donne che gli camminano sopra, perché la prima cosa da fare è riconoscere chi hai di fronte e di conseguenza saperti porti con la lei della situazione in un mondo così vario, nel più vario dei modi. Grazie Andrea Bianchi, ricordo Uomini che lavorano con le donne, gruppo 24 ore, è proprio un libro che spiega, racconta, analizza e rende attuale un dibattutissimo e dolorosissimo tema, quello dei rapporti tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Melog, la realtà condivisa. Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli, una volta alla settimana, obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. La corazzata Kotionkin! Ormai fa parte di tutta la trattatistica, il momento culmine della ribellione dell'impiegato è proprio nel dire che il film è una cagata pazzesca. In questo Fantozzi si riscatta e ogni volta si ripete, ogni impiegato, ogni dipendente, ogni top manager che deve fare i conti con un'imposizione di tipo estetico, di tipo professionale, tipo funzionale, con questa frase. Stiamo parlando, analizzando al vigilia del 1° maggio l'evoluzione del fantozzismo, l'evoluzione di questo senso di frustrazione del lavoratore, che in realtà ha molti aspetti nuovi, ma anche al rientrare, ripetere molti luoghi comuni. Fabrizio Blini, che era qui in studio con me, forse dobbiamo aggiungere qualcosa rispetto all'analisi dei due universi, maschile e femminile, che abbiamo finora visto insieme ad Andrea Bianchi. Sì, si è parlato della trasformazione dell'individuo femminile, che si è emancipata sicuramente nel mondo del lavoro, a cui corrisponde però una trasformazione anche maschile, che è proprio una trasformazione estetica, cioè il maschio si è comunque blandito. Faccio un esempio molto sciocco. Immaginiamo lo spogliatoio di una palestra di 30 anni fa, cioè la percentuale di uomini depilati era una percentuale minima. Guarda, io sono smesso di andare in palestra perché la gente diceva: ma che sta fa con sta moquette, levatela. Di fronte alla ceretta ho detto: lasciamo perdere, non appartengo più a questa generazione. Adesso la cosmetica maschile è una voce importantissima nel bilancio aziendale delle aziende che producono questo genere di prodotti, quindi la percentuale di uomini depilati è cresciuta smisuratamente, quindi è un processo di effemminizzazione che si è creato vero e proprio. Achille Correa, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Achille Correa, ricordo, è un blogger di vecchia data, sceneggiatore, ha condotto per Radio 24 Giro di Vita, storie di gente che hanno cambiato lavoro e vita. La componente pelo è fondamentale nella ridefinizione del fantozzismo della nostra epoca? Forse anche la componente tatuaggio, pensavo mentre vi ascoltavo, perché io spesso mi trovo in situazioni in spiaggia o magari appunto in situazioni sportive in cui sono l'unico non tatuato, quindi forse c'entra qualcosa anche quello. E sul pelo non lo so, forse sì, forse paradossalmente ci si depila per essere più maschi. Ecco, ma esiste te una possibile ricategorizzazione del fantozzismo ai tempi nostri? Guarda, io ti dico che il fantozzismo l'ho visto in varie forme e in vari modi, sia perché la mia vita lavorativa è stata divisa in due, ho fatto sia l'impiegato in una società di consulenza che poi successivamente il freelance, e quindi ho scoperto che si può essere fantozziani o no, sia lavorando in un ufficio sia lavorando da soli, è proprio una disposizione d'animo, e soprattutto ho visto come si è fantozziani nel momento in cui è esploso internet e nel momento in cui l'ufficio stesso ti dava degli strumenti per cercare di resistere o di astrarti resistendo alle angherie dell'ufficio con la reazione, e allora perdo tempo facendo finta di lavorare, fissando con insistenza il mio monitor come se fossi concentratissimo, mentre in realtà sto chattando. Quindi è cambiato soltanto l'hardware. Fantozzi e i suoi amici giocano a battaglia navale con dei fogliettini, adesso abbiamo un supporto informatico, ma l'atteggiamento ma è lo stesso. Fermati un attimo, Danilo Masomasotti, autore di Ci meritiamo tutto, edizioni Pendragon, che è l'evoluzione rispetto all'analisi degli Umarell visti nelle vie bolognesi, ma probabilmente sarebbe interessante capire l'approccio della categoria umana che tu hai analizzato con tanto acume e tanto interesse rispetto al mondo del lavoro, soprattutto nel momento della crisi. Allora, il protagonista del libro Ci meritiamo tutto è a suo modo un Umarell di 35-40 anni, ecco, quindi questo è già... Quindi si è abbassata la soglia dell'umarellismo, si è più precocemente, sì. La soglia dell'umarellismo, nelle generazioni più giovani, riguarda più che altro la concezione del mondo del lavoro, quella fordiana, quindi un orario fisso dalle 8 alle 17 e non importa che cosa fare, quindi vita da ufficio. È comunque il punto di vista della serenità possibile, questo è il sogno, Esatto, questo è il sogno del protagonista Mario Sardi, che però all'inizio del libro si trova che lui, insieme a tutti gli altri protagonisti che si vedranno successivamente nelle altre pagine, si trova che la società presso la quale lavora, che si chiama Nulla S.p.A., chiude e li sbatte tutti a casa, mandando in frantumi tutta questa sicurezza dalle 8 alle 17 a fare sempre le stesse cose. E quindi quindi si trasformano in umarelle con l'anticipo di 30 anni rispetto all'età canonica. Solo che si trovano che si devono reinventare la vita. E quindi con tutte le varie incertezze del caso. Nel caso specifico di Mario Zanardi, il protagonista, che stava molto male in questa società che si chiamava Nulla S.p.A., dove lui era costretto praticamente a non fare niente, stare lì tutti i giorni dalle 8 alle 17 a guardare il monitor e a tentare di andare su internet, che però non si può, allora sempre con la manina sui pulsanti alt e tab, per non farsi beccare dalla sua capa, che è la signorina Arbeit McFry. E quindi qua ci sono queste dinamiche da ufficio, e finalmente la Nulla S.p.A. chiude e tutti i protagonisti del libro si trovano costretti a reinventarsi la vita, e per alcuni sarà veramente l'occasione della loro vita. Beh, c'è molto di profetico in questo libro. In realtà il vero problema oggi è proprio questo: come reinventarsi la vita laddove il lavoro, come l'abbiamo sempre concepito in questi ultimi decenni, non è il cardine essenziale su cui gira tutta la nostra vita, ma non tanto, come ho già detto, la nostra serenità e tranquillità economica, che è fondamentale, tanto la nostra dignità di essere umani. Senza questo cardine che ci spiega, che ci dice, ci indirizza, ci qualifica e ci dà un'idea di quello che noi possiamo essere rispetto agli altri, è molto difficile crearsi un'identità. Detto questo, non è che abbiamo preteso di dare soluzioni, ma è stato, secondo me, divertente e importante fare una riflessione sullo stato dell'opera. Ringrazio Andrea Bianchi, ringrazio Fabrizio Blini, è stato in studio con me, Mirella Di Giorgio da Londra, Achille Corea e Danilo Masomasotti, il professor Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ci sentiamo dopo la festa.